Carissimi, Gesù mi protegga le mie figlie e i miei figli. Quando si pensa ad agosto, viene in mente spontaneamente il tesoro che è la Madonna, nostra Madre, che è figura della Chiesa. In queste settimane rivolgiamoci in modo speciale alla Santa Vergine perché ci ottenga dalla Trinità una vita limpida, ci aiuti a rapportarci con la verità in tutto e per tutto, ci renda donne e uomini dall'anima, insisto, pura, più leali a Dio. Così saremo più Chiesa, più Opus Dei. Vi scrivo dalla terra brasileira, una volta terminata la Giornata Mondiale della Gioventù. Sono stati giorni di grande intensità spirituale, di grande vicinanza al Santo Padre, in compagnia di vescovi, sacerdoti e di milioni di fedeli che si sono recati a Rio de Janeiro. Mi sono rivolto al Signore, forte della vostra preghiera e del vostro lavoro, perché abbondino in noi e nelle persone che frequentiamo i frutti spirituali e anche quelli umani. Magari la semente di Dio, che lo Spirito Santo ha seminato in tanti cuori, maturasse per il bene della Chiesa e del mondo intero. Il mese appena trascorso è stato prodigo di doni divini. È iniziato con la presentazione dell'enciclica Lumen Fidei, con cui il Papa Francesco ha completato la trilogia sulle virtù teologali cominciata da Benedetto XVI. Vi invito a meditarla con calma, per colmarvi di luci nell'intelligenza e di emozioni nella volontà, per impegnarci con più ardore nella nuova evangelizzazione. Il giorno 5, data di pubblicazione dell'enciclica, è stata anche resa nota l'approvazione pontificia del miracolo attribuito all'intercessione di Don Alvaro, che apre le porte alla sua beatificazione, e anche del miracolo che permetterà la canonizzazione di Giovanni Paolo II. Mi ha colmato di gioia la singolare coincidenza di questi due atti pontifici nel medesimo giorno, che vedo come manifestazione della sintonia spirituale che c'è sempre stata tra quel grande pontefice e il mio amatissimo predecessore alla guida dell'opera. Nell'enciclica il Papa ricorda che la fede in Gesù Cristo e in tutto quello che ci ha rivelato resta inalterata dai tempi apostolici. Com'è possibile questo? Come possiamo essere sicuri di attingere al vero Gesù attraverso i secoli? La risposta a tale domanda, che si pongono molti nostri contemporanei, si riduce fondamentalmente a una: per mezzo della Chiesa. La Chiesa, come ogni famiglia, trasmette ai suoi figli il contenuto della sua memoria. Come farlo in modo che niente si perda e che al contrario tutto si approfondisca sempre più nell'eredità della fede? E attraverso la tradizione apostolica conservata nella Chiesa con l'assistenza dello Spirito Santo. Questa trasmissione ad opera della Chiesa, sempre attuale, è principalmente contenuta nei simboli e in altri documenti del Magistero, che espongono la dottrina della fede. Per questo, in questi mesi ci sforziamo di approfondire il credo, aiutati dal Catechismo della Chiesa Cattolica o dal suo compendio, lieti che la nostra fede brilli anche nelle vite dei santi durante l'anno liturgico. Il miracolo attribuito all'intercessione dell'amatissimo Don Alvaro ci offre un nuovo stimolo per mettere in pratica lo spirito dell'Opus Dei, vecchio come il Vangelo e come il Vangelo nuovo. La ricerca della santificazione nella vita ordinaria che Dio affidò a San José María perché lo plasmasse nella sua anima e in quella di molte altre persone. Appena è stata resa pubblica la notizia, vi ho suggerito di considerare più attentamente la santa corrispondenza di Don Alvaro, la sua fedeltà a Dio, alla Chiesa e al Romano Pontefice, la sua piena identificazione con lo spirito dell'opera, ricevuto da San José María, che continuò a trasmetterci in tutta la sua pienezza. Mi soffermo ora su un'altra delle note caratteristiche della Chiesa, la santità. Benedetto XVI, per aiutarci a godere di questa realtà, sottolineava che durante quest'anno sarà decisivo ripercorrere la storia della nostra fede, la quale vede il mistero insondabile dell'intreccio tra santità e peccato. Riflettere sulla santità della Chiesa manifestata nella sua dottrina, nelle sue istituzioni, nella vita di tanti suoi figli e figlie lungo la storia, ci spingerà a ringraziare dal profondo del cuore il Dio tre volte santo, fonte di ogni santità, a renderci conto di essere partecipi della manifestazione di amore della Trinità per noi. Come ci rivolgiamo ad ogni persona divina? Sentiamo il bisogno di amarle distinguendole. Nell'esporre la natura della Chiesa, il Concilio Vaticano II sottolinea tre aspetti in cui il suo mistero è espresso con maggior proprietà: il popolo di Dio, il corpo mistico di Cristo, il Tempio dello Spirito Santo. E il Catechismo della Chiesa Cattolica li spiega ampiamente. In ciascuno si riverbera la nota della santità, che come le altre note distingue la Chiesa da qualunque altra aggregazione umana. La denominazione di popolo di Dio rimanda all'Antico Testamento. Yahvé scelse Israele come suo popolo peculiare, come annuncio e anticipo del definitivo popolo di Dio che Cristo avrebbe stabilito mediante il sacrificio della croce. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Gens sancta, popolo santo, composto da creature con le loro miserie. Questa apparente contraddizione segna un aspetto del mistero della Chiesa. La Chiesa, che è divina, è anche umana perché è formata di uomini, e gli uomini hanno i loro difetti. Omnes homines terra et cinis, tutti noi siamo impastati di terra e cenere. Questa realtà deve indirizzarci alla contrizione, al dolore d'amore, alla riparazione, mai però allo scoraggiamento o al pessimismo. Non dimentichiamo che Gesù stesso ha paragonato la Chiesa a un campo in cui crescono insieme il grano e la zizzania, ad una rete da pesca che raccoglie pesci buoni e pesci cattivi, e che solo alla fine dei tempi ci sarà la definitiva separazione degli uni dagli altri. Al contempo consideriamo che già ora, sulla terra, il bene è più abbondante del male, la grazia più forte del peccato, malgrado la sua azione appaia talvolta meno visibile. La santità personale di tanti fedeli, oggi come ieri, non fa rumore. In genere non riconosciamo la santità di tante persone qualsiasi che lavorano e vivono in mezzo a noi. Davanti agli sguardi terreni sono più evidenti il peccato e le mancanze di fedeltà, perché attirano maggiormente l'attenzione. Il Signore vuole che noi, Sue figlie e Suoi figli nell'Opus Dei, insieme a tanti altri cristiani, ricordiamo a tutti che hanno ricevuto questa vocazione alla santità e devono sforzarsi di corrispondere alla grazia ed essere, ognuno personalmente, santi. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo. Nel corso del tempo, il Signore Gesù forma la sua Chiesa mediante i sacramenti che emanano dalla sua pienezza. È con essi che la Chiesa rende i propri membri partecipi del mistero della morte e della resurrezione di Cristo, nella grazia dello Spirito Santo che le dona vita e azione. La Chiesa è dunque santa, pur comprendendo nel suo seno dei peccatori, giacché essa non possiede altra vita se non quella della grazia. Appunto, vivendo della sua vita, i suoi membri si santificano, come sottraendosi alla sua vita, cadono nei peccati e nei disordini che impediscono l'irradiazione della sua santità. Perciò la Chiesa soffre e fa penitenza per tali peccati, da cui peraltro ha il potere di guarire i suoi figli con il sangue di Cristo ed il dono dello Spirito Santo. Anzitutto, il corpo ci richiama ad una realtà viva. La Chiesa non è un'associazione assistenziale, culturale o politica, ma è un corpo vivente che cammina e agisce nella storia. E questo corpo ha un capo, Gesù, che lo guida, lo nutre e lo sorregge. Come in un corpo è importante che passi la linfa vitale perché è viva, così dobbiamo permettere che Gesù operi in noi, che la sua parola ci guidi, che la sua presenza eucaristica ci nutra, ci animi, che il suo amore dia forza al nostro amare il prossimo. E questo sempre, sempre, sempre. Cari fratelli e sorelle, insisteva il Santo Padre, rimaniamo uniti a Gesù, fidiamoci di Lui, orientiamo la nostra vita secondo il suo Vangelo, alimentiamoci con la preghiera quotidiana, l'ascolto della parola di Dio, la partecipazione ai sacramenti. Vediamo che il corpo umano è composto da una varietà di organi e di membra, ciascuno con una funzione specifica, governati dal capo, per il bene di tutto l'organismo. Anche nella Chiesa, per volontà di Dio, c'è una varietà, una diversità di compiti e di funzioni. Non c'è la piatta uniformità, ma la ricchezza dei doni che distribuisce lo Spirito Santo. Però c'è la comunione e l'unità. Tutti sono in relazione gli uni con gli altri e tutti concorrono a formare un unico corpo vitale profondamente legato a Cristo. Questa unione con Cristo, capo invisibile della Chiesa, deve mostrarsi necessariamente nella forte unione con il capo visibile, il Romano Pontefice, e con i Vescovi in comunione con la sede apostolica. Preghiamo ogni giorno, come fece San José Maria, per l'unità di tutti nella Santa Chiesa. Sin dall'antichità si diceva che nel seno del corpo mistico di Cristo il Paraclito compie la funzione dell'anima nel corpo umano, gli dà vita, lo conserva nell'unità, rende possibile il suo sviluppo sino a raggiungere la perfezione assegnatagli da Dio Padre. La Chiesa non è un intreccio di cose e di interessi, ma è il Tempio dello Spirito Santo, il Tempio in cui Dio opera, il Tempio in cui ognuno di noi, con il dono del battesimo, è pietra viva. Questo ci dice che nessuno è inutile nella Chiesa, nessuno è secondario. In quanto membra del medesimo corpo mistico, noi cristiani possiamo e dobbiamo aiutarci gli uni gli altri a raggiungere la santità mediante la comunione dei santi che confessiamo nel simbolo apostolico. Oltre a spiegare che tutti i fedeli partecipano dei magnalia Dei, le ricchezze di Dio, la fede, i sacramenti, i diversi doni spirituali, l'espressione comunione dei santi designa anche la comunione tra le persone sante, sancti, e cioè tra quanti per la grazia sono uniti a Cristo morto e risorto. I santi del paradiso, le anime che si purificano in purgatorio, noi che stiamo ancora combattendo le battaglie della lotta interiore sulla terra, formiamo una sola famiglia, la famiglia dei figli di Dio, a lode della Santissima Trinità. Con quale determinazione ce ne prendiamo cura? La meditazione di questa verità di fede, per cui nessun battezzato può sentirsi solo nella sua lotta spirituale o nelle sue difficoltà materiali, colmava di consolazione San José Maria. Notiamo questa certezza in cammino. La comunione dei santi, come potrei spiegartela? Sai che cosa sono le trasfusioni di sangue per il corpo? Ebbene, così viene a essere la comunione dei santi per l'anima. Poco dopo aggiunge: ti sarà più facile compiere il tuo dovere se pensi all'aiuto che ti prestano i tuoi fratelli e all'aiuto che tu smetti di dar loro se non sei fedele. Riempiamoci sempre di tanto coraggio, figli e figli miei, anche dopo una caduta, anche quando ci sentiamo deboli e senza forze nella lotta spirituale, è sempre possibile, con la grazia di Dio, riprendere il cammino verso la santità. Siamo circondati da una moltitudine di santi, di persone fedeli al Signore, che cominciano e ricominciano costantemente nella loro vita interiore. Ci basta, d'altronde, elevare gli occhi al cielo. Ci conferma in questa certezza anche la grande solennità che celebreremo il giorno 15, l'Assunzione della Santissima Vergine. Forti dell'intercessione di Gesù, che supplica continuamente Dio Padre per tutti noi, quale grandissima consolazione, quale immensa sicurezza ci assicura la contemplazione di nostra Madre, sempre protesa alla salvezza dei cristiani e di tutti gli uomini. Nella Santissima Vergine la Chiesa ha già raggiunto la perfezione, in virtù della quale è senza macchia né ruga. Tutti noi fedeli ci stiamo ancora sforzando per vincere in questa nobile lotta della santità, allontanandoci completamente dal peccato. Per questo innalziamo gli occhi a Maria, che risplende come modello di virtù per tutta la comunità degli eletti. Rivolgiamoci a lei, pertanto, in tutte le vicissitudini della Chiesa e in quelle personali di ciascuno. Madre, chiamala forte, forte. Ti ascolta, ti vede, forse in pericolo, e ti offre, Santa Maria tua madre, con la grazia di suo figlio, la consolazione del suo grembo, la tenerezza delle sue carezze, e ti sentirai rinfrancato per la nuova lotta. Questo clamore di preghiere salga al cielo con molta forza da tutta la terra, nel rinnovare la consacrazione dell'Opus Dei al cuore dolcissimo e immacolato di Maria il prossimo 15 agosto. Fortemente uniti nella preghiera, chiediamo alla bontà divina tutte le grazie di cui il mondo, la Chiesa e ciascuno di noi ha bisogno. Con tutto il suo affetto vi benedice vostro padre Javier.